Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, bentornati alla finestra sul cortile. Genius loci. Cosa intendiamo con questa espressione? Per gli antichi romani il genius loci era un'entità soprannaturale legata allo spirito di un luogo. Per noi è semplicemente il carattere, l'identità di una città, di un paese, di un popolo. Cosa sarebbe, per esempio, New York senza le auto? Cosa sarebbe la Spagna senza i toreri? Il traffico e le corride sono due cose che per motivi differenti a molti di noi non piacciono, non incontrano il favore dell'opinione pubblica illuminata, degli ambientalisti o degli animalisti, ma c'è anche chi non riesce a farne a meno e a volte l'eccesso di zelo di chi vorrebbe cancellare questi fenomeni, queste tradizioni, questi retaggi del passato può portare anche a conseguenze paradossali o addirittura controproducenti. Di questi temi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario. New York, l'auto e la grande mela, una lunga storia d'amore. Visti dagli altri, Spagna, il violinista Fabio Biondi svela il lato stravagante e narcisista di Vivaldi. Spagna, Julio Aparicio, una vita sotto il segno del toro. Tel Aviv, israeliani e palestinesi si incontrano su internet. America, la NASA in brutte acque chiude il programma spaziale Constellation. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe, una terribile, l'Etna. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere, e è la siccità, una brutta cosa. Ma è la natura e non ci possiamo fare niente. Ma dove possiamo fare? È nella terza e più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. E ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Era una delle scene più esilaranti di Johnny Stecchino con Roberto Benigni, ed era appunto lo zio di Johnny Stecchino che, per non parlare di mafia, elencava quelle che a suo avviso erano le piaghe di Palermo. Ma appunto il traffico tentacolare, il traffico che ci soffoca, che ci imprigiona, insomma, che è considerato, insomma, una delle iatture della vita contemporanea urbana. Ma proprio sul traffico e invece sui suoi aspetti, come dire, culturali, storici e perfino esteticamente apprezzabili, c'è una mostra in corso al Museo della City of New York, appunto a Manhattan, Fifth Avenue, e di cui parla il New York Times, una mostra che parla del rapporto di amore e odio, insomma, tra la città simbolo della modernità e la civiltà dell'auto. L'articolo è di Edward Rothstein e inizia parlando di uno spot pubblicitario della Lamborghini, di questa auto di lusso, affusolate, veloci, insomma, è uno spot del 2003 che è andato in onda sulle TV americane, in cui si vedeva appunto questa auto che sfilava, insomma, che passava nelle vie di New York, vie deserte. deserte, vuote, lavate dalla pioggia e come una geometrica maestosa un maestoso scenario notturno di canyon urbani. E dice, ecco, questo è un po' quello che uno sogna, la città perfetta in cui uno si possa muovere agevolmente, mentre la realtà di oggi è ben diversa. Ma è difficile immaginare New York senza le automobili, e questa mostra è proprio ci racconta come la storia dell'auto e la storia di New York siano in qualche modo inseparabili. Basti pensare che nel 1900 c'erano soltanto 8.000 auto circolanti negli Stati Uniti, ma 2.500 di esse erano a New York. E poi la prima superstrada costruita al mondo fu proprio quella che collegava New York a Long Island nel 1908, e nel 1924 le auto erano già 800.000. Allora lo sforzo che adesso le organizzazioni ambientaliste, lo stesso sindaco Bloomberg, stanno facendo per trasformare New York in senso più umano, cioè in direzione di una città camminabile e ciclabile, è uno sforzo che, secondo l'autore dell'articolo, Edward Rothstein, sul New York Times, può anche avere degli effetti controproducenti e discutibili. Ne parliamo con l'ospite che abbiamo al telefono, Stefano Boeri, che salutiamo. Buongiorno. E buongiorno Boeri, architetto, urbanista, direttore dal 2007 della rivista Abitare, una prestigiosa rivista di architettura. Ma Boeri, lei conosce certamente molto bene New York, e quindi questa idea, insomma, di che una città costruita a misura di automobile, no, possa diventare pedonale e ciclabile senza perdere la sua anima. Ecco, come è possibile, ecco, conciliare questi due aspetti? Adesso stanno nascendo proprio delle piste ciclabili molto lunghe, insomma, attraverso la, per esempio, la West Street. Ma appunto, io credo che un po' l'esempio di New York sia interessante, utile anche per noi, perché è l'esempio di una città che non sta assumendo delle scelte apodittiche e generalizzanti, non dice basta automobili, tutto pedonale, tutto ciclabile. È un discorso attento che cerca di individuare delle zone in cui portare il, come dire, la vita quotidiana, muoversi solo attraverso mezzi pubblici o mezzi che non inquinano, lasciare invece il traffico privato in punti dove è impensabile toglierlo, perché se uno pensa anche ai gradi di pendolarismo, certo, su Manhattan, che New York, l'area del bacino complessivo di New York ha, ci rendiamo conto che per certi versi sarebbe una penalizzazione, un danno economico formidabile. Un'utopia, insomma, che non si può realizzare. Insomma. È intelligente questo modo di ragionare per pezzi, per parti. Alcune zone diventano totalmente pedonali, ci sono alcuni circuiti ciclabili, per esempio hanno recuperato una straordinaria ferrovia sopraelevata, facendola diventare un percorso verde pedonale, che è una delle cose più straordinarie e una delle attrazioni di New York, della New York contemporanea, mentre si lasciano alcune aree dove invece il traffico automobilistico continua a farlo da padrone. Questo è interessante perché ci dà, come dire, un'indicazione anche su come potremmo nelle città europee e italiane muoverci sulla questione del traffico. Ecco, ma veniamo appunto a fare un paragone con l'Italia. Cioè, Milano non è certamente New York, ma le piste ciclabili ancora ce le sogniamo. Ecco, che cosa cambierà con l'Expo? Per ora vediamo solo grattacieli che spuntano come funghi. Speriamo che l'Expo aiuti a stabilire un rapporto nuovo tra la vita nella città e tutto ciò che rappresenta l'agricoltura, la natura coltivata, la possibilità di immaginare un'agricoltura che produce beni che sono utilizzabili dai cittadini. Questa è la vera grande sfida dell'Expo, quindi è una sfida che porterà, io mi auguro, a Milano e non solo a Milano, anche dei modelli di agricoltura urbana, di orti urbani, di spazi coltivabili prossimi alla città, e che valorizzi tutta questa grande area agricola che ancora oggi le città italiane spesso hanno al loro intorno. Ecco, ma lei, ma lei fa questo esempio evidentemente pensando a un progetto specifico. Non... Beh, il progetto per l'Expo è di fatto stato pensato come un grande orto, è un orto planetario dove i paesi del mondo nel 2015 verranno a coltivare un pezzo di terra, e raccontando il modo con cui coltivano, le loro pratiche, le loro tecnologie attraverso delle serre, attraverso degli spazi, dei lotti coltivati, racconteranno anche della sfida che ciascun paese porta alla grande questione della nutrizione, della fame del mondo, della proprietà delle sementi. Ma in complesso il paesaggio dell'esposizione sarà un paesaggio verde coltivato, e per la prima volta al mondo saranno presenti le essenze, i cibi di tutto il mondo in un unico luogo. Quindi la spettacolarità, l'attrattività dell'Expo di Milano si giocherà proprio su questo grande tema dell'agricoltura e della dimensione alimentare vicina alle città. Ecco, ma al di là, diciamo, dell'evento Expo, anche per i residenti, per i milanesi, insomma, speriamo che la vivibilità della metropoli lombarda, insomma, ne possa trarre giovamento. Noi ringraziamo l'architetto Boeri, buona giornata, buona domenica e a Grazie presto. Grazie anche a voi, buongiorno. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Più che visti dagli altri, questa puntata della nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero dovrebbe intitolarsi Ascoltati dagli altri, perché parliamo del violinista Fabio Biondi, non ancora cinquantenne, e del suo ultimo disco, di cui parla Aurora Insausti sul País, e con anche una intervista al nostro musicista. E questo disco, leggiamo sul País, è una ricompilazione di arie di opera con una cantante americana, Vivica Genoux, e con il gruppo Europa Galante. Sono per lo più musiche del 6-700, in particolare Vivaldi, di cui Biondi dice che lo affascina il lato stravagante, narcisista e pieno di sorprese. E poi dice ancora il nostro violinista, il barocco è molto moderno, e questo spiega il grande successo che hanno i concerti suoi e del suo gruppo in giro per il mondo, anche presso un pubblico giovanile. Probabilmente, dice, anche per un certo parallelismo con il jazz, perché scopriamo da questa intervista, Biondi non si limita ad eseguire queste arie barocche, ma ogni tanto improvvisa, proprio come in una jam session. La finestra sul cortile. Vittorero, tu sei piazzato in capo su sombrero, e dici così spagnolo in un mio vero, in una grinda sacca va a bambà, mescolando un bolere che sa più zazzazzà. Torero, tu sti facetta sudamericano, e con un sigario d'aria canto sei te, torero, torero. Era Renato Carosone, la sua band, che nel 57 aveva addirittura conquistato le classifiche, le hit parade americane, e a livello era diventato un successo internazionale con questa canzone Torero. E proprio di toreri parleremo in questa parte della finestra sul cortile, perché è uscito una intervista su un quotidiano spagnolo di orientamento conservatore, ABC, ad un torero, Julio Aparici, un importante torero che proprio nel maggio scorso è stato incornato da un toro, e quindi ritorna alla sua attività dopo due mesi in cui è passati, come dire, a guarire da queste ferite subite da parte del toro. E in questa intervista racconta perché ritorna sulla arena senza nessuna paura, anzi con più entusiasmo e più voglia di combattere di prima, e c'è tutto l'orgoglio, insomma, di chi considera questa tradizione, questo spettacolo popolare spagnolo qualche cosa così di artistico, insomma, di nobile. dice, tra l'altro parlando di sé, dice: io sono una persona mite e sensibile, sono nato per creare arte e cerco di trattare i tori con dolcezza. Beh, una dolcezza evidentemente un po' particolare. E dice: mi sento più affine a un pittore o a un poeta. E poi se la prende con alcuni governi regionali, per esempio il governo della Catalogna, in cui che cercano di proibire la corrida in nome di principi, appunto, di rispetto dei diritti degli animali. Ma se noi pensiamo a che cosa rappresenta il toro, i toreri, la tradizione per esempio della corsa dei tori a Pamplona, immortalata da Hemingway nel romanzo Fiesta Mobile per lo spirito spagnolo, certo sarà una battaglia dura sradicare questo, diciamo così, antico vizietto, antico sport, che però per molti di noi ha degli aspetti così spiacevoli o addirittura ripugnanti. Ecco, ma abbiamo al telefono un ospite, intanto che salutiamo, Franco La Cecla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La Cecla, antropologo, ha passato parecchi anni a Barcellona, conosce molto bene la realtà spagnola. La Cecla, ma c'è un po' un paradosso, se vogliamo, una forma di relativismo etico-culturale in Spagna, perché ci sono alcuni governi regionali che considerano la corrida un bene culturale da tutelare, altri che invece lo considerano una barbarie, una tortura che dovrebbe essere proibita. Ma è una divisione di carattere politico, oppure anche a sinistra, diciamo così, ci sono degli estimatori della corrida? Lì sicuramente, cioè, i catalani sostengono che non c'entra niente la politica, diciamo, in qualche modo l'autonomismo, perché invece sicuramente in questa voglia di eliminare la corrida c'è anche una polemica anticentralista, cioè in qualche modo i catalani non si ritengono spagnoli e quindi vogliono eliminare questa traccia che sarebbe la corrida, che è una traccia comunque per loro di ispanismo. Ovviamente in tutto questo c'è il fatto che la Catalunya in qualche modo è la regione che si picca di essere la più moderna, la più europea, e quindi che pensa che tutto ciò fa parte di un passato che va rimosso, che va dimenticato, no? Che va superato. La polemica è strana, perché in realtà la polemica è un po' nata, cioè, diciamo, il partito anticorrida è nato ovviamente dai movimenti, quelli appunto per la difesa degli animali, dai movimenti un po' vegan, e poi ha trovato una risonanza però più politica all'interno dei partiti indipendentisti. Adesso so che è quasi passata, quindi in qualche modo la stanno bandendo. Non è chiaro in realtà quanto alla gente in generale la cosa dia fastidio o meno, questa sparizione. Quello che è sicuro è che, insomma, diciamo, la corrida ha veramente a che fare con la storia profonda in qualche modo della Spagna, quindi quali sono particolari simboli che vengono evocati, insomma, da questo spettacolo e che spiegano, insomma, il suo successo e l'attaccamento delle masse anche a questa forma di tradizione? Ma dunque, sì, sicuramente c'è questa cosa del insomma, è una specie di resto di qualcosa di molto antico, che è un rapporto, diciamo, tra uomo e animale, tra uomo e animale direttamente, una specie di sfida tra una forza bruta e una grande furbizia, una grande agilità. Una delle cose interessanti è che il torero è uno dei personaggi più femminili che esista nella storia dell'umanità, cioè perché? Ma perché il torero è vestito in qualche modo in maniera femminile, ha le calzette rosa, le scarpine, cioè in qualche modo il torero è una signorina agile che è con in mano la spada. Però è anche un macho, insomma, no? Che sfida. È anche un macho. Infatti è pieno di simbologie sessuali, ma in entrambi i casi, nel senso che perché insomma quando il torero infila la spada nel toro glielo infila tra i seni, questo è quello che viene detto, però anche il toro può incornare in un modo diciamo maschile il torero, però sicuramente insomma, cioè, c'è una simbologia sessuale molto forte nel torero, è una cosa che affonda in una antichissima tradizione, per cui è un po' questo diciamo il un po' la profondità del fatto che una cosa del genere non si può, non può essere spazzata, non si può bandire da una legge, no. Certo, poi uno può anche restare disgustato dallo spettacolo, no? di come accoppano il toro, cioè è uno spettacolo di sangue, non c'è dubbio, però è anche vero che cioè, lui il torero, quello che è stato incornato, questo grande torero che adesso torna nelle arene, lui dice che però se non ci fossero le corride sparirebbero i tori, nel senso che poi le corride sono un modo per cui questo animale viene in qualche modo curato, allevato, cioè è il motivo per cui per esempio le vacche non sono mai sparite nel mondo, perché visto che ce le mangiamo non si estinguono, ecco, il motivo per cui il WWF per un periodo ha finanziato in Africa un'industria di carne di elefante, perché, ecco, perché se in realtà il vero problema è che se gli animali vengono usati non spariscono. Ecco, non bisogna dirglielo a Jonathan Safran Foer. Bene, noi ringraziamo la CECLA, buona domenica e buona estate. Grazie a voi, grazie, grazie. A presto. Il computer come strumento di pace. Sul Jerusalem Post si racconta del weekend degli start-up che si è tenuto a Tel Aviv e che ha riunito 140 partecipanti tra tecnici, imprenditori, informatici, sia israeliani che palestinesi, che insieme progettano delle nuove aziende nel campo delle tecnologie informatiche. 23 dei 140 partecipanti provenivano dal West Bank e dal Gerusalemme Est. Uno degli organizzatori del Centro per la Pace, Peres, dice: il linguaggio delle idee e della tecnologia trascende le differenze e la natura dell'industria in cui gran parte del lavoro è fatto su internet e non è dipendente dalla vicinanza geografica, significa che i muri e i blocchi stradali non hanno nessuna importanza. Dall'informatica all'industria spaziale, andiamo sulle pagine del Los Angeles Times. Un inviato del giornale californiano è andato a Sandusky, nell'Ohio, dove in una caverna vicino al lago Erie sorge un enorme complesso della NASA, costato 150 milioni di dollari, e che doveva dare vita al cosiddetto Constellation Program, che avrebbe dovuto portare di nuovo un equipaggio umano sulla Luna. E purtroppo però succede che Obama in gennaio ha proposto di cancellare il programma lunare e un comitato del Senato americano ha votato nei giorni scorsi di chiudere definitivamente il progetto Constellation. Il guaio è che questo progetto dà lavoro a 14.000 persone e i contribuenti americani pagano 9 milioni al giorno per mantenere in attività tutta questa gente. Insomma, gli astronauti rimangono a terra, le navi spaziali pure. L'unica cosa che sale alle stelle è la spesa del governo americano. E per oggi è tutto. La finestra sul cortile chiude qui e chiude per la pausa estiva. Torneremo a settembre. Buone vacanze a tutti dal vostro Riccardo Chiaberge.